Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro sguardo su quello che accade al di fuori dei confini italiani. Anche questo programma l'ho confezionato assieme a Antonio Talia, Eleonora Aragona e Silvia Malnati. Andrea Roccabelle in regia gli darà musica e ritmo. Vi ricordo che potete porre domande o commentare al 349-238-6666, il numero, ve lo ricordo, funziona sia per gli sms che per i whatsapp. Su Twitter cercateci Nessunluogo24, ovvero il mio account personale Giampaz, su Facebook è Nessunluogolontano-Radio24. Se ci avete ascoltato alle 13 con l'anticipazione di Nessun Luogo, vi ho detto che oggi il Congo, Repubblica Democratica del Congo, urla tutta la sua attenzione ed è lì che andiamo, a Beni. Bonjour à tous. L'actualité africaine ce matin avec le pire massacre commis dans la région depuis deux ans dans l'est de la République démocratique du Congo. Les habitants de Beni expriment leur colère. Une fois encore, des civils sont tombés sous les coups de machette. Les autorités qui ont repoussé les assaillants n'ont pu que limiter les dégâts. Certains ont eu la chance de survivre. Beni è una città del Nord Kivu, siamo quasi al confine con l'Uganda. Beni è una città che da due anni vive un massacro silenzioso, quasi 1500 morti a causa di, così le autorità congolesi hanno indicato, un gruppo ribelle che si chiama ADF Nalu, che avrebbe anche una componente islamista al suo interno. Il gruppo nasce come opposizione al governo ugandese di Museveni, poi cacciato dall'Uganda, e nei dintorni di Beni avrebbe per due anni appunto portato avanti questi massacri. Mentre vi parlo, se avete Twitter sotto mano, l'hashtag da seguire è Beni. Ebbene, lì la situazione è ritornata calma, ma oggi, durante la marcia di protesta della società civile, dei cittadini contro l'impotenza dello Stato di fronte a questi massacri, si è trasformata in un'altra pagina tragica per la storia congolese. C'è un morto ucciso da un proiettile, vi sono 9 feriti e le strade messe a ferro e fuoco nella città appunto del Nord Kivu. Fittissimo il lancio di pietre, il sindaco ha dovuto scappare, darsi la fuga, farsi proteggere dai militari. La collera, la rabbia evidentemente dei congolesi si è fatta sentire, la polizia però ci è andata giù pesante tirando con armi da fuoco, tirando proiettili veri e non soltanto gas lacrimogeni. Parecchie manifestazioni vi sono state anche in altre città congolesi. La situazione a Beni era diventata insostenibile dopo che nella notte tra sabato e domenica a Rwangoma, nella periferia appunto di questa città del Nord Kivu, e siamo nel pieno della foresta, ebbene un comando fatto da persone non identificate, le autorità dicono ancora ADF Nalu, hanno assaltato capanne e case, hanno dato fuoco alle abitazioni e hanno ucciso a colpi di macete più di 50 persone. Il bilancio e le emozioni di queste ultime tragiche pagine della cronaca di Beni le ha tracciate per noi Micheline Mwendike, che è una studentessa congolese, un attivista di Lucha Congo, che è questa associazione per la difesa dei diritti dell'uomo, da poco sorta ma estremamente attiva soprattutto a Goma. Beh, Micheline adesso in Italia, l'abbiamo raggiunta, sentite come tratteggia la situazione di Beni. Beni da due anni più di 1500 persone sono morti, uccisi manualmente con una milizia. Nessuno sa chi sono queste persone, chi arrivano nei villaggi uccidono 10 persone un mese, l'altro mese 20, e alcuni giorni fa sono arrivata fino molto vicino a una città molto grande e hanno ucciso più di 60 persone. E per questo c'è la rabbia del popolo, che non abbiamo più la sicurezza, non abbiamo l'esercito, perché dicono che c'è delle operazioni contro questi gruppi, però non c'è nessun risultato. E così oggi c'è tanti tanti movimenti, tante persone che sono stati a Beni, nella città di Beni, ma anche nelle altre città, Goma e Kinshasa, per dire al governo che basta, che queste cose devono finire. Se mi interessa seguire le ultimissime sulla situazione di Bemi, una dei giornalisti da seguire è Sonia Rolle di RFI, che è sul posto ed è particolarmente esperta e informata. Proprio lei sta twittando che in questo momento, un minuto fa, una nuova barricata è stata eretta all'altezza della chiesa in centro città a Beni e la polizia sta per intervenire. Allora, questo è quello che ci racconta la cronaca, quindi di manifestazioni di piazza, di collera, di repressione, non è la prima volta, piuttosto dura da parte della polizia, con un morto e 9 feriti. Che cosa sta accadendo? Sentite invece i dubbi e le criticità che mette in luce Fidel Bafilemba, è un analista congolese indipendente ed esperto della regione, sentite. Qual è la mia idea di quello che sta accadendo a Beni? È una situazione confusa, creata a tavolino. È ideata, preparata e mantenuta da persone a cui questo caos fa comodo. Cito le autorità del governo della Repubblica Democratica del Congo e della MONUSCO. Finché la crisi umanitaria colpirà questa regione, a chi approfitta della situazione vengono garantiti migliaia e migliaia di posti di lavoro e altrettanti dollari di guadagno. Insomma, come sentite, Fidel Bafilemba non le manda certo a dire. In buona sostanza la tesi è: il caos e la guerra continua creano occasioni di guadagno per tutti. Vi sono state molte critiche in passato per quella che è la più grande, la più lunga e la più costosa missione ONU della storia. La prima, peraltro, che abbia avuto anche compiti offensivi, perché 2 anni fa la brigata di intervento è quella che mise fine alla vita di uno dei tanti gruppi ribelli, sempre nel Nord Kivu, si trattava del movimento M23. Ma allora si tratta solo ed esclusivamente di un gigantesco teatro. Sentite cosa dice Fidel Bafilemba. Allora, esistono effettivamente degli assassini, delle persone che stanno mettendo a segno degli attacchi. Esistono le ribellioni, si contano oltre 60 gruppi armati in Kivu che stanno eseguendo rapimenti e uccisioni nei vari villaggi. Ma vi faccio un esempio per mostrarvi che questa situazione è davvero organizzata. Una settimana fa c'è stata una ribellione nel Kasai occidentale, guidata da un capovillaggio. Dato che questo capo non era connivente con chi detiene il potere, sono state subito sguinzagliate le forze di sicurezza, che l'hanno ucciso senza nemmeno lasciargli il tempo di spiegarsi. Al contrario, per gli altri gruppi armati si applica l'amnistia o li si lascia fare. Se i media non si decidono a rompere il silenzio su quello che succede a Beni, contribuendo a mantenere il caos, questa tragedia continuerà. Io, in ogni caso, non vorrei essere né tra quelli accusati di non aver prestato soccorso alle persone in difficoltà, né tra i complici che non riportano cosa dice la gente di qui. E quello che dice la gente di Beni è che non ne può più e che chiede una maggiore azione da parte del governo. Chiedono le dimissioni di Kabila, chiedono le dimissioni del governatore del Nord Kivu. 1500 morti in 2 anni, la maggior parte degli assalti all'arma bianca, immaginate, a colpi di macete, villaggi interi bruciati, e tutto questo sotto gli occhi di battaglioni, di fardessé dell'esercito regolare e anche della presenza dei caschi blu dell'ONU. L'hashtag da seguire è Beni. Sonia Rolle, una tra le giornaliste più informate, in questo momento si trova proprio a Beni, se volete saperne di più. Prima di presentarvi il prossimo ospite, vi faccio sentire ancora la voce di Fidel Bafilemba, al quale ho chiesto molto schiettamente, molto direttamente, a chi fa comodo questa situazione. Ci sono diversi attori sul campo, certo, ma mi lasci spiegare la mia teoria. Nella regione dei Grandi Laghi si trova quello che io chiamo un triangolo delle Bermude. Ai vertici ci sono il presidente ugandese Yoweri Museveni, il presidente del Ruanda Paul Kagame e quello del Congo Joseph Kabila. Se queste 3 persone decidessero di riportare la pace agli abitanti del Kivu e a quelli del Congo orientale e di sradicare i cosiddetti ADF Nalu, vi assicuro che potrebbero farlo con uno schiocco delle dita. Ma dato che questo caos umanitario fa comodo prima di tutto a questo triangolo, ecco perché continueremo ad assistere a questa situazione ancora per anni. Finché non prenderemo coraggio in quanto cittadini del mondo e popolo di queste terre e daremo la precedenza agli interessi delle nostre carriere invece che all'umanità, saremo colpevoli anche noi di mantenere questa crisi e di non mettere nero su bianco chi sono le persone che l'organizzano e che ne traggono profitto. A substantiellement profit. Il triangolo delle Bermude, lì nella regione dei Grandi Laghi, Uganda, Ruanda e Repubblica Democratica del Congo, Kagame, Kabila e Museveni che in qualche modo si spartiscono le ricchezze e a discapito della popolazione locale. Professor Giampaolo Calchi Novati, benvenuto nel suo luogo lontano. Buonasera. Allora, professore all'Università di Pavia, insegna storia e istituzioni dei paesi africani, esperto di colonialismo e decolonizzazione del continente, insegna anche a Boston e a Los Angeles, fra gli altri atenei. Questo per ricordare il curriculum del professor Calchi Novati. Allora, è d'accordo con la feroce fotografia che ci consegna Fidel Bafilemba, questo triangolo delle Bermude, questa triade che mette in scacco l'intera regione? Questa interpretazione può avere un senso, ma nasconde una rivalità che finora ha sempre diviso in modo particolare Kabila da Kagame e dallo stesso Museveni. Va ricordato che in effetti il padre di Kabila è stato portato al potere rovesciando attraverso una specie di marcia di liberazione, rovesciando Mobutu, ed è stato sostenuto fortemente dall'esercito dell'Uganda e del Ruanda. Ma è altrettanto vero che quando Kabila, il padre, ha cercato di affermare la propria sovranità nel paese, è cominciata una sorda guerra regionale sostenuta di fatto dagli eserciti del Ruanda e dell'Uganda. Non dimentichiamo che Ruanda e Uganda godono di forti solidarietà e complicità a livello internazionale, essendo considerati parte delle forze che sostengono più o meno la politica occidentale, in particolare la politica degli Stati Uniti nella regione, eserciti addestrati dagli Stati Uniti. Il Congo ha cercato di disfarsi di questa pressione sulle appunto sulle confini nordorientali, sì. E il periodo primo periodo provvisorio di Joseph Kabila dal 2001 al 2006 ha visto in qualche modo una specie di governo di unità nazionale in cui i ribelli hanno avuto dei ruoli importanti perché sono stati chiamati a far parte del governo con vicepresidenza eccetera. Poi sono cominciate le elezioni nel 2006 e nel 2012. Adesso c'è il problema delle elezioni del 2016 che di fatto non potrebbero non tenersi. Sì. Però questo conflitto sordo che riguarda le risorse del Congo, su cui Ruanda e Uganda hanno messo più volte operazioni di disturbo, non possono essere così facilmente sorvolate dicendo che si tratta di tre grandi personaggi che trovano comodo la guerra. Sì. A rigore la guerra fa comodo ai paesi vicini del Congo. Che Kabila possa sfruttare una situazione di incertezza e di instabilità per ritardare o annullare le elezioni potrebbe essere vero, ma è altrettanto vero che il problema fondamentale, alcuni un po' scherzando, un po' sul serio, hanno detto: se vogliamo la pace nel triangolo delle Bermude, bisogna che il Congo dia un pezzo del suo territorio al Ruanda, perché il Ruanda altrimenti non cesserà mai di premere sulle frontiere, oppure conceda, questo è un problema che riguarda difficilmente paesi anche arretrati, conceda una forma di privilegio negli investimenti, nello sfruttamento delle risorse di cui il Congo è ricco e il Ruanda è povero. Questo è il problema del triangolo delle Bermude, che, ripeto, può anche verificare quella situazione. Non dimentichiamo un famoso libro di Patrick Chabal, Africa Works, in cui si spiegava come il caos in paesi poco strutturati e istituzionalizzati, sì, giovi effettivamente persino all'economia, come diceva anche uno degli interlocutori, perché si mettono in moto dei traffici illeciti, a cominciare dalle armi e da qualche altra forma più o meno criminosa, che mette in moto un'economia che non funziona. Ma di nuovo non dimentichiamo che il Congo, un paese di 80 milioni di abitanti, con risorse enormi, è un paese che non credo possa veramente farsi promotore del caos come unico elemento di sopravvivenza, forse per il governo, certamente non per il paese. Chiarissimo. Certamente questo caos, questa situazione Beni può essere un elemento cruciale per la sopravvivenza politica di Kabila, perché come giustamente ricordava lei, quest'autunno vi dovrebbero essere elezioni. Usare il condizionale è d'obbligo perché, visto che la CENI, la Commissione Elettorale, sta ritardando ampiamente i lavori di preparazione, molto ragionevolmente queste elezioni non ci saranno, il che permetterebbe a Kabila, senza cambiare la Costituzione, di arrivare al terzo mandato. Professore, sia con me, perché su questo volevo sollecitarla. Ascoltiamo insieme ancora cosa dice Micheline Mwendike dell'associazione Lucha Congo su questa situazione. Sentiamo insieme. Noi pensiamo che nessuno può proteggere il congolese meglio che noi stessi. In Congo c'è la missione la più grande delle Nazioni Unite, la più costosa di tutte le missioni delle Nazioni Unite, della storia delle Nazioni Unite, però è veramente brutto che queste cose stanno accadendo e che noi chiediamo che il Congo ricostruisce l'esercito, richiediamo la riforma dell'armato, perché un paese non può vivere senza nessuno per proteggere, così ognuno pensa di proteggere se stesso, e per questo motivo le guerre non finiscono, perché non abbiamo più un armato degno di questo nome, e questo armato è morto da qualche anni, da più di 10 anni, perché c'è dei processi di pace che fanno che i ribelli entrano nell'esercito, perché loro leader entrano nel governo, però mentre sono lì continuano a obbedire al loro proprio leader, e perché non c'è una riforma, non c'è un processo di integrazione forte per ricreare questo esercito. Noi sappiamo che il Congo ha una storia molto difficile, siamo a più di 20 anni di guerre e che abbiamo 34 anni di dittatura. Allora, ora che le cose devono essere ricostruite è molto difficile, e per questo noi chiamiamo il nostro governo di proteggere la popolazione di più, perché noi sappiamo bene che l'ONU non fa bene le cose, è molto ipocrita, perché tutto il gioco di diplomazia di più che del lavoro sul posto. Professor Calchinovati, questa giovane studentessa che è tra i membri dell'associazione Lucha Congo punta il dito contro la mancata riforma dell'esercito congolese, che è una cozzaglia di milizie. In verità una prima riforma è stata fatta, è in corso, diciamo. E poi contro l'inazione dei caschi blu delle Nazioni Unite. Io peraltro ero a Beni esattamente 2 anni fa e devo dire che ho potuto constatare con mano, ahimè, come dire, un certo lassismo, complice anche la geografia del luogo, però insomma è molto difficile pattugliare quelle zone. Poi andremo meglio nei dettagli di cosa sta accadendo realmente a Beni. Lei pensa, professor Calchinovati, che, primo, sinteticamente se può, è veramente un punto di svolta politico per Kabila? Cioè, o risolve il problema di Beni, 1500 morti in 2 anni, oppure è politicamente finito? Secondo, con la riforma dell'esercito congolese si risolvono tutti i problemi? Cominciando dall'esercito, va ricordato che l'esercito è sempre stato un elemento particolarmente destabilizzante, paradossalmente, nel Congo, perché spesso l'esercito non veniva pagato e probabilmente non viene pagato, per cui diventava un fattore esso stesso di crimini per spogliare la popolazione, impadronirsi di ricchezze, minacciare rivolte contro il governo, eccetera. La riforma, se ci sarà, deve anche tener conto che, appunto perché il governo, per tentare di risolvere i problemi regionali, ha incorporato alcune delle milizie che hanno partecipato alla guerra come ribelli, è obiettivamente un esercito abbastanza diverso, eterogeneo, poco integrato. Quindi ben venga una riforma, ma sappiamo che spesso l'esercito nutre continua a nutrire rivendicazioni e possibilmente tentazioni golpiste, che probabilmente potrebbero essere anche uno dei fattori di questa crisi, perché si dice, come ha detto anche il rapporto di quell'università di New York, sì, che ha studiato il caso, che sicuramente qualche colpo da parte dell'esercito regolare o cosiddetto regolare, sì, è responsabile delle morti che ci sono avvenute. Sì. Professore, io peraltro ricordo, tra parentesi, che lo stipendio medio di un soldato congolese è $80, quindi potete immaginare se una famiglia arrivare a fine mese, molti di loro fanno il secondo lavoro, chi può, insomma. Questo, esatto, per dire, un ufficiale arriva a 100-120 dollari. Molti degli elementi del vecchio Sendepé di Rorankunda sono stati integrati con i vecchi comandanti nelle stesse zone in cui combattevano, per cui anche degli episodi, no, al limite del surreale. L'altra cosa, telegrafico, è il banco di prova, è il battesimo, è il momento della verità per Joseph Kabila, questa crisi di Beni. Ma sicuramente Kabila dovrebbe in teoria lasciare il potere entro la fine dell'anno, entro il 20 dicembre. La Corte ha dichiarato che può rimanere fino a che non ci saranno prossime elezioni. Quindi c'è una specie di gara a ritardare le elezioni per impedire che Kabila debba lasciare il potere. Kabila ha vinto due elezioni, ha avuto anche una serie di facilitazioni naturalmente nella sua posizione di potere, ha vinto senza controllare mai veramente Kinshasa, quindi una vittoria elettorale che lascia dietro un buco di popolarità, di forse, sì, anche persino di sostegno, quella che era capitale, politica, economica, eccetera, del paese. Il terzo mandato sarebbe il quarto, ma quello fra il 2001 e il 2006 non, sì, conta, perché è stato fatto dal governo provvisorio. Il terzo mandato è stato dichiarato anche dalla Corte Suprema illegale e quindi a rigore Kabila è comunque alla fine della sua politica. Sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea hanno persino minacciato delle sanzioni contro il Congo, sia che non proceda con il processo appunto elettorale, sia che Kabila forzi la situazione per avere un terzo mandato. Quindi che Kabila possa ritardare le elezioni con la scusa della guerra, però è un boomerang, perché giustamente questa guerra sta diventando una forte penalità per il governo. Certo. E per l'ONU, non dimentichiamo che l'ONU, il MONUSMO, è lì in Congo e spesso è stato impotente, non solo in questo caso ma in altri casi. Questo è un problema che riguarda probabilmente in generale le Nazioni Unite. Non dimentichiamo che l'ONU è stato nel 1960 teatro della primissima operazione militare dell'ONU in Africa, al momento dell'indipendenza, sì, del Congo, proprio appunto, quindi, sì, c'è una storia che in un certo senso è durata 60 anni, 50 anni più, e purtroppo l'ONU ha dimostrato di non essere mai in grado di gestire una state building, nation building, institutions building, tutto quello che vuole essere chiamato il costruttivo, sì, sì, perché è una forza militare. Non si riesce mai a creare né l'ONU né purtroppo le forze internazionali che si arrogano di tanto in tanto questa idea dell'intervento militare per porre fine alle crisi istituzionali, perché si tratta di crisi istituzionali, non riescono a risolvere e dipende dai fattori interni. Non dimentichiamo che in tutto questo disastro, quando si è votato, il Congo ha dato l'impressione di credere nell'unità nazionale, perché le elezioni sono state forzate, qualche broglio ci sarà sicuramente stato, però eventi che hanno coinvolto l'intera popolazione, sorprendendo anche chi si aspettava una rigida divisione tra, sì, le regioni, i gruppi, eccetera, eccetera. Sì. Quindi il processo democratico è probabilmente una democratico per quello che riguarda almeno le elezioni, perché sappiamo poi che la democrazia è tutta un'altra serie di requisiti che in un paese immenso, grande, diviso, disparato, con poche risorse, se vogliamo, di tipo istituzionale, eccetera, Congo fa fatica a realizzare pienamente un quadro democratico. Però questo processo democratico, anche nelle sue forme più evidenti, se vogliamo anche più sommari, le elezioni, un Parlamento, una divisione fra governo e Parlamento, eccetera, è il vero nodo. Quindi Kabila o non Kabila, c'è da augurarsi che il Congo, possibilmente con le sue sole forze, possibilmente senza altre interferenze da parte dei ambiziosi paesi vicini, sì, dimentichiamo che Ruanda è un paese di pochi milioni di abitanti e costituisce in un certo senso, diceva, il Bismarck dell'Africa dei laghi. Quindi, sì. Beh, la Svizzera africana, insomma, attrae investimenti, sì, insomma. Va bene. Quindi io credo molto di più nelle capacità del Congo di riprendersi. Tra l'altro il Congo è una classe dirigente relativamente importante. Purtroppo abbiamo sempre questa difficoltà di esercitare, per esempio quello che si è presentato come possibile candidato alle prossime elezioni è stato costretto a riparare in Sudafrica perché è minacciato, variamente ferito, è andato in Sudafrica per curarsi, ma poi di fatti è rimasto come asilo politico perché minacciato di essere arrestato se torna. Sto parlando di Moise Katumbi, sì, già presidente del Katanga, già alleato di Kabila, sì, quindi non si era presentato uno che è stato tradizionalmente un alleato di Kabila. Sì, sì, sì, no, chiarissimo. Peraltro poi questo aprirebbe un nuovo contendente che sarebbe Tshisekedi, ma dire nuovo insomma sembra una barzelletta perché è nella storia congolese da tempo. Vedremo come andrà a finire, speriamo, insomma. Mi unisco al suo ottimismo finale. Professor Giampaolo Calchinovati, grazie mille per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Buonasera, grazie. Allora, abbiamo l'informazione finanziaria, poi concludiamo, andiamo alla ciccia. Chi ha perpetrato i massacri di Beni nel nord Kivu? 1500 morti in 2 anni. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo è lontano. Il mistero che avviluppa Beni, questa città nel nord del Nord Kivu, siamo al confine con l'Uganda, in cui vi sono attacchi da ormai 2 anni massicci, svariati morti, quasi 1500, la conta è anche difficile perché spesso è una regione impervia, dove c'è la boscaglia, dove le capanne e i villaggi sono dispersi. La popolazione civile di Beni, ma anche di Butembo, sta, una città vicina, una cinquantina di chilometri, sta protestando contro l'inazione da parte dell'esercito e del governo che non risolve il problema. L'hashtag da seguire è Beni Sone Rolle, tra i giornalisti da seguire che è sul posto. Noi abbiamo sentito la voce di Fidel Bafilemba, che è un analista congolese indipendente, esperto della regione. Abbiamo sentito il professor Calchinovati, che ci ha dato una dimensione storica al fenomeno, ricucendo quelle trame tra tre paesi, il Congo e 2 paesi vicini, Uganda e Ruanda. Ma che cosa sta accadendo? Fra l'altro è molto interessante vedere che tra la gente che sta protestando in questo momento a Beni e a Butembo c'è un'immagine che chi conosce il Congo, chi conosce il Nord Kivu, insomma, se la ricorderà quel personaggio, era il colonnello Mamadou. Chi ha tué Mamadou Ndala? Un colonel vaillant, homme de caractère et de courage, commandant incontesté et aimé par le peuple. Eleonora Aragone è andata a spulciare su YouTube e non solo, c'è un sacco di video che ritraggono il colonnello Mamadou, era il comandante in seconda dell'esercito governativo congolese contro le ribellioni di M23, era uno che si faceva valere, era molto amato dai soldati, era molto amato dalla popolazione civile, stava ristabilendo quel rapporto di integrità e di onestà che vi dovrebbe essere tra un esercito e la sua popolazione. Quel colonnello era a Beni ed è stato ucciso. Da chi? E questo è un grande punto di domanda. I suoi colleghi, i generali, hanno detto se sono stati i ribelli della Defnalu, ma c'è qualcuno che avanza seri, serissimi dubbi. In effetti il rapporto che già citava il professor Calchinovati sostanzialmente mette in luce una tragica, benefica commissione tra elementi dell'esercito congolese e i presunti ADF-NALU. Vi sarebbero stati veri e propri reclutamenti per condurre questi attacchi, per creare il caos, per destabilizzare e così trarre il profitto che abbiamo raccontato. Cosa manca alla società civile di Beni? Forse il supporto internazionale? Sentite cosa dice Fidel Bafilemba, analista congolese indipendente. Penso che la società civile di Beni sia presa in ostaggio, così come quella congolese. Bisogna decidersi comunque a rischiare la morte, dichiarando ciò che sto per dirvi. Bisogna avere questo coraggio. Se gli organizzatori dei massacri di Beni sono di Beni, come pensate che la società civile sia abbastanza forte per disfarsi di questa presa in ostaggio? Adesso si parla degli islamisti di Al-Shabaab, Al-Qaeda, Boko Haram. Ma di chi vogliamo prenderci gioco? Ritengo che la società civile non avrà scelta perché è lasciata a se stessa. Non possiamo neanche immaginare come, nonostante l'intelligence di MONUSCO, i 20.000 soldati, le 3.000 forze di intervento FBI, l'arsenale di armi e i droni e anche tutte le squadre anticrimine della Repubblica Democratica del Congo, a Beni i massacri continuino da anni e non si sappia ancora chi siano i colpevoli. Possiamo ingannare le persone una volta, ma non due. Anche la vostra radio dovrebbe avere il coraggio di affermare che prima di essere giornalisti siamo cittadini del mondo e stiamo assistendo a questa tragedia senza fare nulla. Nous sommes en train d'assister à cette tragédie sans rien faire. Quali sono allora le richieste da avanzare al governo congolese, in particolare al presidente Joseph Kabila? Sentite Fidel Bafilemba. Scusate, sono stufo di fare richieste al governo congolese. Penso che quello che tutto il mondo dovrebbe fare sarebbe spingere la società a farsi parte civile in modo che possa denunciare gli uccisori di Beni. Se avessimo un Parlamento che fosse davvero dei congolesi, questo Parlamento dovrebbe consegnare alla giustizia le istituzioni della Repubblica Democratica del Congo. Si dovrebbe in ogni caso richiedere l'impeachment del Presidente della Repubblica, dato che è lui il capo supremo dell'esercito. Da quando 15 anni fa il nostro caro presidente è stato eletto, ogni giorno si seppelliscono persone, ci sono rapimenti, sfollamenti di massa, massacri e una barbarie. A questo punto siamo ancora cittadini del mondo e della Repubblica Democratica del Congo? E allora cosa dovrei chiedere a un governo che ha il potere da 15 anni e che non ha mai avuto come priorità la sicurezza dei suoi cittadini? Chi fa comodo tutto questo? Chi sta dietro tutto questo? Beh, essere smaliziati politicamente, Kabila era stato a Beni proprio 3 giorni prima del massacro. La sua campagna elettorale nel 2011, quella che potrebbe iniziare per le nuove elezioni, puntava molto sulla sicurezza dell'est. E allora una situazione difficile, complessa, pericolosa da risanare può essere un'ottima leva politica. Aggiungete tensioni etniche, aggiungete le ricchezze presenti, aggiungete questa viziosa commistione tra presunti ribelli ed esercito, notabili locali, ed ecco che viene fuori la polveriera Beni. L'ultima domanda per Fidel Bafilemba era su questo: chi sta dietro ai massacri di Beni? Je vais vous convier. Vi rimando al rapporto della Commissione parlamentare del 2015 che spiega il comportamento dell'esercito congolese. Inoltre, leggete l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite di marzo. Questo rapporto dice esattamente chi è responsabile delle uccisioni a Beni. Vi invito anche a leggere l'ultima pubblicazione di Daniel Fahey, che è stato fino a 2 anni fa il coordinatore del gruppo di esperti delle Nazioni Unite. Daniel Fahey ha identificato un individuo che ha chiamato un ufficiale dell'esercito congolese per vendere la falsa storia sull'identità della DF Nalu. Questo rapporto rivela nel modo più chiaro possibile chi sono i responsabili e i mandanti delle uccisioni a Beni. Quindi chi vogliamo prendere in giro quando ci continuiamo a chiedere chi è che uccide a Beni? Sulla nostra pagina Facebook posteremo i link a questi due importanti, interessantissimi rapporti. Insomma, in buona sostanza, la riforma dell'esercito congolese è evidentemente di grandissima urgenza, perché quel Mr. X evocato e citato nel rapporto era proprio un ufficiale congolese, così come le voci che sono susseguite sull'assassinio del colonnello Mamadou, insomma, dicevano che sarebbero state forze in seno proprio all'esercito congolese contrarie a questa persona così positiva, così virtuosa, che tanto aveva rinnovato appunto all'interno dell'esercito. Allora, voltiamo pagina, cambiamo totalmente argomento e adesso vi raccontiamo un'altra storia. Questa storia inizia, o meglio finisce, al numero 73 di Gunnersbury Avenue ad Acton Town, Londra Ovest. C'è un edificio a 2 piani che sembra in tutto e per tutto una piccola villetta da tranquilla periferia londinese. con i giardini ben curati, i bovini alle finestre, ma nelle ultime ore quella villetta è diventata il cuore di un intrigo internazionale. Infatti, al numero 73 di Gunnersbury Avenue c'è la sede dell'ambasciata nordcoreana a Londra e il vice ambasciatore Tae Yong-ho è scomparso insieme alla moglie e al figlio. La notizia rimbalza ieri da un sito sudcoreano ai media di tutto il mondo. Tae non è scomparso, è fuggito. Ha disertato insieme alla moglie e ai figli e adesso, secondo quanto ha comunicato un portavoce del Ministero degli Esteri di Seul solo poche ore fa, si trova sotto la protezione delle autorità della Corea del Sud. Ma chi è Tae Yong-ho? Secondo quelli che lo conoscevano, come il giornalista della BBC Steve Evans, il vice ambasciatore è un uomo distinto, colto, con quasi 10 anni di servizio a Londra. Il suo compito principale consisteva nel difendere l'immagine della Corea del Nord dagli attacchi dei media. Tae era, o forse non era, il funzionario che coordinava lo spionaggio su alcuni dissidenti nordcoreani a Londra Sud. Tae era, o forse non era, la persona che accompagnò l'eccentrico fratello del dittatore Kim Jong-un a un concerto di, indovinate chi? Di Eric Clapton alla Royal Albert Hall. Tae potrebbe essere, o forse no, il funzionario nordcoreano più alto in grado che abbia mai disertato. Impossibile sapere da quanti anni preparasse la fuga. Impossibile immaginare le informazioni che in questo momento sta condividendo con l'intelligence di Seul e probabilmente di Londra. Di sicuro, in questo momento, a Pyongyang, molti dignitari del partito stanno tremando. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Gianluca Spezza, ricercatore all'Università of Central Lancashire, all'Istituto Internazionale di Studi Coreani. Dottor Spezza, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Salve, grazie a voi. Allora, qual è il significato di un episodio di questo tipo? È il segno della fragilità del regime? Non necessariamente. Cioè, quando una figura di livello medio-alto, e qui devo contraddire un attimo quanto è stato detto nell'intro, non è la figura più alta. Si può dire che un ambasciatore in un paese europeo sia una figura di livello medio-alto, forse. Comunque, quando una figura di questo genere decide di passare all'altra parte, un significato c'è e da quanto vedo io... da quanto è stato già scritto sui media in Corea del Sud e per ragioni classiche, c'è una insoddisfazione con quello che succede a Pyongyang e la percezione che almeno a dir suo Pyongyang abbia un futuro molto breve, però è difficile da dire. Allora, dottor Spezza, stia con noi perché a noi piace spesso dare i numeri, sentiamo quelli sulla Nord Corea. La Corea del Nord, o Repubblica Democratica Popolare di Corea, è uno dei paesi meno conosciuti al mondo sotto il profilo sociale, politico ed economico. Nato dalla scissione nel 1945 dai territori del Sud, lo Stato si definisce di matrice socialista, anche se di fatto è una dittatura militare e totalitaria di stampo stalinista, con un culto della personalità elaborato intorno agli esponenti della famiglia Kim. Kim Jong-un, l'attuale leader, ha ereditato il potere nel 2011 in seguito alla morte del suo predecessore, Kim Jong-il. Il mito dell'autosufficienza è la caratteristica principale del paese che ha blindato i propri confini. La rigidità dello Stato nordcoreano nei rapporti con i paesi stranieri risale agli anni 50, fatta eccezione per la Cina e la Russia, con le quali ha costanti scambi commerciali. Nel dicembre 2013 Amnesty International ha documentato l'esistenza, anche attraverso l'utilizzo di immagini militari, di grandi campi di prigionia politica. Il numero dei detenuti, secondo Amnesty, si aggirerebbe sulle 200.000 persone, tra cui si contano anche dei bambini. Human Rights Watch ha definito i nordcoreani come uno dei popoli più brutalizzati al mondo. la Corea del Nord e quella del Sud hanno siglato una tregua al termine della guerra degli anni 50, ma mai ratificato una pace ufficiale. La tensione tra i due paesi torna così a riaccendersi periodicamente. Gli analisti ritengono tuttavia molto difficile che questi contrasti possano evolvere in una guerra su larga scala. Allora, questa è in sintesi la storia della Corea del Nord. Adesso l'informazione sul traffico, poi torniamo a questa spy story. Nessun luogo è lontano. In questa seconda pagina di Nessun luogo è lontano vi stiamo raccontando quella che è una vicenda che potrebbe scaturire da una penna di un bravo giallista. Il vice ambasciatore della Nord Corea a Londra, a un certo punto dopo 10 anni di onorata carriera, decide di volatilizzarsi. Che cosa starà rivelando alle autorità di Seul e ragionalmente anche a quelle di Londra? Lo cerchiamo di capirlo grazie a due ospiti che sono il dottor Gianluca Spezza, ricercatore alle University of Central Lancashire, Istituto Internazionale di Studi Coreani, e Giulia Pompili, redazione esteri del Foglio, a cui do il mio benvenuto a Nessun Luogo. Ciao Giulia, ben ritrovata. Buonasera a tutti. Allora, professore, dottore, quanto potrebbe sapere questo tizio? Cosa potrebbe rivelare alle autorità di Seul e alle autorità londinesi? È un vice ambasciatore, quanto sa del regime? Abbastanza per uno del suo rango, non è sicuramente uno a livello di Hwang Jang-yeop che lasciò il paese nel 97, e quella era una figura ben più di spicco. In realtà è una domanda un po' difficile, è impossibile sapere quanto sappia lui del paese e quanto stia dicendo a quelli di Seul. Sa di sicuro quello che succede nel governo e sa dopo 10 anni all'estero che magari non tutto quello che ha imparato a scuola corrisponde al vero. Sicuro, però non parliamo di una persona negli alti ranghi dell'esercito, non parliamo di qualcuno che ha a che fare con i programmi del reattore di Yongbyon, sì. Quindi non tantissimo, sì. Secondo me. Sì, insomma, forse più una storia che interessa i giornalisti di quanto non possa interessare l'intelligence, ma tant'è, ogni tanto noi ci innamoriamo anche di queste spy story. Grazie mille a Gianluca Spezza per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Giulia Pompili, e quante defezioni ci sono l'anno dal regime di Pyongyang? Questo episodio segue un'altra defezione o diserzione, insomma, anche sui termini bisognerebbe stare un po' attenti, perché in effetti si tratta di un regime, questo era un vice ambasciatore. Ma la dipartita di cui vi racconto adesso riguarda 12 cameriere di un ristorante nordcoreano a Ningbo, in Cina. Sono state rilasciate oggi dalle autorità sudcoreane dopo 3 mesi di debriefing, di controllo. Insomma, sostanzialmente volevano capire se erano spie o meno, immagino io. Giulia, quanto è frequente questo fenomeno? Sono parecchie ormai, cioè di defectors, come li chiamiamo noi, ma in realtà sono profughi veri e propri, perché chiedendo asilo, ovviamente, richiedenti asilo, ecco. Certo. Ogni anno ce ne sono sempre di più e il problema è, per la Corea del Nord, riguarda soprattutto questi lavoratori lavoratori che mandano in giro per il mondo a lavorare per la Corea del Nord, che sono di fatto degli schiavi del regime. Si parla di almeno 50.000 nordcoreani che ogni anno vengono dislocati in varie aree. In Cina ce ne sono ovviamente molti che appunto gestiscono ristoranti, per esempio, o lavorano nel settore tessile. Molti di questi hanno contatti, pur essendo controllatissimi, hanno contatti con la vita esterna, con tutto ciò che succede al di fuori della Corea del Nord, e capiscono che appunto l'indottrinamento che avevano subito durante la loro vita in Corea del Nord non corrisponde al vero, ecco. Allora Giulia, fra l'altro pochi mesi fa una tua inchiesta aveva svelato poi il passaggio a Roma di un funzionario nordcoreano che lavorava per la FAO, poi si era rivelato una spia, insomma poi era sparito a Parigi. La tua inchiesta ha sollevato discreto interesse, c'è stata, se non erro, anche un'interrogazione parlamentare, insomma segno che queste cose avvengono, e a volte chi diserta, fugge, poi chiede asilo è anche, voglio dire, può avere dei chiaroscuri, ecco, mettiamola sì. Così vi sono poi notizie che di chiaroscuro non hanno quasi nulla, perché a fronte di queste spy story che dicevamo, insomma, sembrano scaturire da penne talentuose e abilissime, vi sono invece storie di ordinaria controinformazione, potremmo dire, e altre invece di presunta normalità. La prima è un festival della birra proprio a Pyongyang, che vi raccontiamo tra un secondo. La seconda invece, la seconda storia, prevede, senti un po', una muta, un longboard o una se sei bravissima anche la tavola più corta, e un'adeguata colonna sonora. E la macchina dov'è? Chi se lo ricorda? Un momento, aspettate. Guardate che roba. Arrivano le onde. Che fai? Vuoi andare giù? Se vuoi romperti il collo ruzzolando per questi gradini, fa come ti pare, sono cavoli tuoi. Insomma, che si surfi sulle coste californiane è risaputo, che quelli di noi più nostrani vadano a Calais o, se va bene, in Versilia è ok, ma che la Corea del Nord fosse una meta del turismo anche per surfisti, questa è una cosa che sta crescendo ed è anche abbastanza nuova. Nel 2015 è nata Surf North Korea, è una scuola di surf per turisti sportivi che organizza corsi di surf appunto nella baia Mayon a Amung, e l'insegnante è fra l'altro un italiano che è l'allenatore della squadra nazionale cinese. Questo è solo uno dei tanti esempi di un rinnovato interesse dell'industria del turismo per appunto la Corea del Nord, e i numeri iniziano a essere importanti, perché nel 2015 Pyongyang ha accolto 100.000 turisti e Kim Jong-un ha affermato che entro il 2017 i turisti saranno 1 milione, entro il 2020 2 milioni, con insomma introiti che iniziano a superare i 40-50 milioni di dollari. Giulia Pompili, come si legge questa, insomma, a fronte di un regime estremamente chiuso, questi enormi spiragli di apparente libertà, di osmosi anche con i turisti stranieri? Sì, non c'è niente di mitologico, dico semplicemente hanno bisogno di valuta straniera, a questo servono i turisti per la Corea del Nord, e quindi il fatto che rilascino più visti possibili per l'ultima crisi furibonda che c'è stata poco tempo fa con la Corea del Sud, che ha fatto chiudere l'impianto industriale congiunto di Kaesong, sì, per esempio, quella crisi lì era scaturita anche dal fatto che la Corea del Sud non aveva accettato di riaprire un impianto sciistico che sta a metà sul confine del 38esimo parallelo tra il nord e il sud. E questo dimostra l'importanza che dà il regime di Pyongyang al turismo, al settore turistico, proprio per questo motivo qui, perché con le nuove sanzioni internazionali non possono avere più nessun contatto con economie straniere, ma proprio, sì, cioè, nemmeno una bottiglia di vino si può più regalare a un nordcoreano. È l'unico modo che hanno di avere valuta straniera, dollari, euro, è far passare per la Corea del Nord dei turisti. Allora, Giulia, hai citato il vino, io invece ti citerei la birra, senti un po'. E questo è un frammento di racconto da parte della CCTV di questo festival. Venerdì la Corea del Nord ha ospitato a Pyongyang il primo festival della birra prodotta dal birrificio statale Taedonggang, spero di pronunciarlo bene. Hanno partecipato all'evento oltre 800 persone e il festival si tiene lungo il fiume Taedong, da cui prende il nome la fabbrica della birra, e dura ben 20 giorni. Anche questa apertura, come dire, folcloristica, certo non siamo a livello dell'Oktoberfest, però è la ragione è la stessa, è un'apertura soprattutto economica che poi però si tramuta in apertura culturale per ovvie ragioni. No, certamente attività di questo genere, come tanti altri festival che si fanno in Corea del Nord, fanno parte di tutta la propaganda del partito, che mostra i suoi prodotti ai nordcoreani, è una sorta di propaganda soprattutto a uso interno, chiaramente. Noi che seguiamo quotidianamente i giornali nordcoreani e le agenzie di stampa nordcoreane ci rendiamo conto che poi ci sono cose che ci fanno un po', no? Sembrano strane ai nostri occhi occidentali. In realtà, insomma, è come il festival della birra in Unione Sovietica, o abbastanza frequente che ci siano attività ludiche di questo tipo. Sì. Tra l'altro pare che la birra nordcoreana sia molto migliore di quella sudcoreana. Attenzione, stai dando una notizia, perché no? Che Pyongyang superi Seoul sulla qualità della birra. È già, insomma, visto che citi la qualità della birra, allora stavo leggendo che vi sono 7 qualità di birra a Taedonggang: la 1, la 2, la 3. Non c'è molta fantasia sui nomi, evidentemente, però. E vengono accompagnate da brezel, che è quel particolare pane che forse, insomma, chi frequenta il nord, l'Austria, l'Alto Adige avrà gustato. In sottofondo, naturalmente, musica popolare nordcoreana patriottica, così ci racconta le cronache riportate dal Guardian. Il problema qual è? Che il mercato di sbocco, che potrebbe essere naturale, quello cinese, la rende un po' costosa, perché costerebbe $3 a bottiglia, quindi questo, insomma, Giulia, potrebbe essere un problema sul mercato cinese. Vabbè, insomma. Grazie mille, Giulia Pompili, per essere stata con noi e aver analizzato queste aperture e queste chiusure del regime di Pyongyang. Buona giornata e buon lavoro, Giulia. Grazie alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Allora, abbiamo un minuto e mezzo ancora, forse meno, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, in cui siamo partiti dal massacro di Beni e dalle proteste che sono tuttora in corso sia a Beni che a Butembu, ma anche a Goma, se non erro. Alcune marce sono state fermate, il bilancio rimane di un morto e 9 feriti. La popolazione di Beni chiede la fine di questi massacri e un intervento reale da parte dell'esercito. Vi darò conto di questo, ma anche di altre storie, nella puntata di domani. Adesso i ringraziamenti e i titoli di coda. Con i quali ringrazio Eleonora Aragona, Silvia Mannati, Antonio Taglia, con me in redazione Andrea Roccabella in regia, voi per essere stati all'ascolto. Se vi siete persi dei pezzetti, stasera alle 21 potete risentirci, oppure radio24.it, il podcast, quello lo trovate tra pochissimo. Se vi interessano altre storie, domani alle ore 16, Nessun Luogo Sarà Lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.